Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti alle lezioni di jazz, questa è la prima del 2016, la terza di questa quarta stagione. Intanto vorrei fare una cosa, visto che hanno nuovo, abitudini nuove, non abbiamo, devo dire, colpevolmente mai ringraziato i tecnici, che non sono pochi, che lavorano all'audio, al video, alle luci, quindi farei un applauso. A chi lavora dietro le quinte in questo ambiente bellissimo. Allora, oggi, come sapete, entriamo nella musica di Wayne Shorter. Ci tengo a sottolineare che sarà una lezione appunto sulla musica di Shorter piuttosto che sulla sua vita o sulla sua vicenda artistica. Come vedrete nell'ultima slide c'è un libro molto bello dedicato a lui, tradotto in italiano, attraverso il quale potrete conoscere tutta la sua vicenda biografica. Che come sapete peraltro continua con grande successo. Shorter è oggi una delle grandi icone del jazz contemporaneo, è ancora molto attivo nonostante abbia passato gli 80 anni e è stato presente molte volte a Roma, anche qui all'Auditorium, quindi lo conosciamo bene. E ha vissuto una vita difficile, costellata tra l'altro da problemi familiari e lutti molto, molto pesanti, molto, molto duri, che lui, devo dire, ha affrontato anche tra alti e bassi personali, comunque sempre con grande forza e con grande dignità. E forse la grandezza di un musicista che ha superato gli 80 anni e continua a essere sulla cresta dell'onda gli viene anche da questo essere stato temprato, in un certo senso, dalla vita. Ma non è questo ciò di cui voglio parlarvi oggi, ma voglio fare una lezione apparentemente, vedrete, un po' più tecnica, ma in realtà spero di rimanere comprensibile a tutti per farvi capire la bellezza, la profondità e le sottigliezze della musica di Wayne Shorter. In questo senso non seguirò un ordine cronologico, non mi interessa, il mio scopo è quello di entrare appunto nelle composizioni di Shorter e quindi salteremo da un periodo all'altro, da uno stile all'altro, avremo modo di scoprire varie cose. Però per capire un po' anche meglio il profilo del personaggio di cui stiamo parlando, vorrei riassumere proprio a grandi passi i momenti fondamentali della sua vita. È nato nel 1933, negli anni 50, dopo l'università, ha fatto le prime esperienze importanti con Horace Silver e con l'orchestra di Maynard Ferguson, ma ci sono 3-4 tappe fondamentali poi della sua carriera, che sono la prima, quando lui entra nei Jazz Messengers di Art Blakey, il batterista al centro e in alto a destra, Shorter è lì intento a comporre, entra come sax tenore e soprattutto come direttore musicale dei Jazz Messengers. Direttore musicale vuol dire quello che scrive i pezzi, che fa gli arrangiamenti, che sceglie la scaletta, insomma una specie di leader ombra del gruppo, proprio perché Shorter si stava affermando non solo come eccellente sax tenore, ma anche e soprattutto come compositore. Negli anni in cui è con Blakey, viene continuamente corteggiato da Miles Davis, che lo vuole nel suo gruppo. Lui però ha un contratto con Blakey e solamente quando finalmente questo contratto scade, nel 1964, entra nel leggendario, oggi leggendario, quintetto di Miles Davis con Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter, il ragazzino Tony Williams alla batteria. Questo quintetto sta in piedi nell'ultima parte, poi con dei cambiamenti, con Chick Corea al pianoforte, Dave Holland al contrabbasso, sta in piedi fino al 1970. E sappiamo che oggi, insomma, è uno di quei gruppi che hanno veramente cambiato la musica del Novecento. Lasciato Davis, Shorter fonda un nuovo gruppo con un altro musicista che aveva incontrato alla corte di Miles Davis, cioè Joe Zawinul, e insieme, ah no, dimenticavo, scusate, tra il 64 e il 70, dimenticavo un dettaglio, lui fa concerti, ovviamente, dischi con Miles Davis, ma fa anche una serie di dischi. Qualcosa ascolteremo stamattina con la Blue Note. Sono alcuni dischi, sono famosissimi, Adam's Apple, Speak No Evil, Night Dreamer. Juju, tutti i dischi fondamentali degli anni 60 e del jazz moderno, che però non hanno, è bene ricordarlo, non hanno alcun corrispettivo nella musica dal vivo, cioè Shorter non suona con i suoi gruppi, Shorter si guadagna da vivere suonando con il quintetto di Miles Davis, ma poi quando va in studio fa tutta una serie di dischi come leader. Vi dicevo che incontra Joe Zawinul e con Joe Zawinul fonda i famosi Weather Report, a cui credo che, posso anticiparlo, dedicheremo una lezione nella quinta stagione. Nessuno mi ha ancora ingaggiato per la quinta stagione, però così facendo sto facendo capire a qualcuno in sala che non si libereranno di me così facilmente. Mi incatenerò alle porte dell'auditorium se non mi fanno fare la quinta stagione. Oppure la faccio fuori dall'auditorium e gli rubo il pubblico, diciamo così. Allora, tra il 71 e l'85 c'è questo sodalizio straordinario, davvero spero di poterlo approfondire il prossimo anno, con uno dei gruppi che hanno cambiato la storia del jazz e del rock tra gli anni 70 e 80, un gruppo che poi per logorio interno si... questa è una foto del periodo con, vedete, con Jaco Pastorius sulla destra, Manolo Badrena e Alejandro Acuña, un gruppo che poi per logoramento interno si scioglie e segue una fase abbastanza confusa e ondivaga del periodo successivo, almeno fino al 2000, in cui Shorter dirige dei suoi gruppi e tra l'altro ricordiamo anche che con l'arrivo dei Weather Report, con l'ingresso nei Weather Report, Shorter si mette a suonare anche il sax soprano, cosa che aveva fatto solo occasionalmente con Davis, era sostanzialmente un tenorista, ma poi nei Weather Report suona soprattutto molto il soprano. Vi dicevo, scioltisi i Weather Report, qui lo vediamo con Carlos Santana, dirige vari gruppi, la musica ha alti e bassi, spesso anche dei bassi, e fa, diciamo, la comparsate di lusso con delle superstar internazionali, è un momento anche personalmente molto difficile della sua vita, ma superate alcune tragedie personali, Shorter ritrova una seconda giovinezza, che è quella di cui stiamo godendo anche in questi anni andandola ad ascoltare, col suo nuovo quartetto, con Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade, che è senza dubbio ormai da 15 anni uno dei gruppi di punta della scena contemporanea. Questo è, diciamo, in maniera molto sommaria un riassunto della carriera artistica di Shorter. Noi adesso però vorrei aiutarvi a comprendere come funzionano soprattutto le composizioni di Wayne Shorter. Tratteremo anche il solista, ma anzitutto vorrei comprendere come Shorter ha potuto scrivere alcuni dei brani più straordinari della storia del jazz e con un carattere veramente particolare, profondamente personale. Partirei da un brano che è stato scelto per un criterio profondamente scientifico e oggettivo, è uno dei miei preferiti. Si chiama Dolores. Shorter lo compose nel 1966 per il quintetto di Miles Davis, anche se noi non ascolteremo la versione con il quintetto di Davis. La brutta notizia di oggi è che io suonerò alcuni di questi pezzi al pianoforte, anche per esaltarne poi la bellezza quando veramente sentirete Shorter suonare. No, in realtà è fondamentale capire, che io possa farvi capire con degli esempi, alcuni meccanismi della musica di Shorter. Il primo che voglio mostrarvi ha a che fare con due aspetti. Il primo aspetto è quello ritmico. Shorter lavora moltissimo su un'idea semplice ed efficace in musica, quella che tecnicamente si chiama omoritmia. Cioè, prendo un'idea ritmica, per esempio pa pa pa pa pa pa pa pa pa, ok? Senza le note, un ritmo, e ripropongo questo ritmo in maniera sempre identica, ma cambiando le note. Dolores è fatto in questo modo. Non è Dolores, ok? Questo è il ritmo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Poi cambia note, ma il ritmo è lo stesso. Ta, ta ta ta ta ta ta ta. La terza frase è stesso ritmo, altre note. Tra l'altro sta nel mezzo, poi sale, poi scende. Tra l'altro è meraviglioso che sta in piedi anche senza accompagnamento, no? Proprio perché c'è questo ritmo ti ta ta ta ta ta ta ta ta. Dopodiché la melodia diventa, sentite, un po' astratta. Questo è cominciamo a conoscere un tipico aspetto di Shorter. C'è un elemento di astrazione. Sentite com'è angolosa. Poi divava giù. Questa astrazione diventa più melodica, ma il ritmo non cambia più avanti. È molto più fluido, più cantabile. Sono meno salti, ma il ritmo è sempre ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Alla fine Shorter riprende la stessa idea dell'inizio. Quindi c'è un'idea A, un'idea B e la ripresa dell'idea A. Tra l'altro, come dire, le due idee hanno appunto anche questo diverso aspetto. Una è piena di salti. E l'altra invece più melodica. La posso proprio suonare volendo. Ok? Quello che tiene insieme tutte queste idee è questo ritmo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La versione che noi ascoltiamo, non per intero, perché ascolteremo i brani concentrandoci sui temi e sugli assoli di Shorter, non è quella del quintetto di Davis, che secondo me è troppo astratta per capire, che poi Davis ha tolto l'armonia, ha fatto dei cambiamenti, non ci torna utile per comprendere il pezzo. Ma ascoltiamo una versione, scusate, del 1977, con un quintetto in cui si riunì praticamente il vecchio quintetto di Davis, ma con Freddie Hubbard al posto di Miles Davis. È una registrazione dal vivo, con Herbie Hancock, appunto, Hubbard, Shorter, Ron Carter e Tony Williams, ed è una versione bellissima che tra l'altro il cantante Kurt Elling ha rifatto aggiungendoci poi un testo, proprio questa versione qui, con questo assolo di Shorter. Ne approfittiamo per sentire come Shorter tra l'altro costruisca sia l'introduzione sia l'assolo, il tema e l'assolo, basandosi sui frammenti del tema. Questo è un aspetto caratteristico del suo stile improvvisativo. Dato che i temi sono così icastici, così caratterizzati, lui preferisce mantenere questo elemento compositivo, tematico, dentro l'improvvisazione. È un tratto che lo accomuna a Thelonious Monk o a Sonny Rollins, di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione, proprio dedicando un'attenzione particolare a questo aspetto. Allora, ascoltiamo Shorter e il quintetto in un frammento di Dolores. Thank you. Abbiamo fatto anche la conoscenza con il suono del sax tenore di Wayne Short. Avete sentito che improvvisa ragionando proprio come un compositore, un misto di improvvisazione e composizione perfetto, perché continuamente circola questo tema. E anche laddove non fa il tema, gli basta evocare il ritmo. Che immediatamente quello che ascoltiamo si connette al tema principale. Dicevo, abbiamo fatto anche la conoscenza con il suono del sax tenore di Shorter. Come avete sentito, sicuramente, poi lo capiremo meglio anche dopo, dietro c'è l'ombra di John Coltrane, che è stata la sua prima e più grande ispirazione, per certi versi forse anche Dexter Gordon, e in questa tecnica tematica dell'improvvisazione Sonny Rollins, ma è Coltrane sicuramente l'ispiratore principale. Però Shorter ha poi raggiunto una personalità di suono che lo rende assolutamente inconfondibile. Tanto per dirne una, questo suono così un po' nasale, strozzato, il suono teso, l'articolazione sempre un po' frantumata, cioè in cui si sente proprio questo scoppiettare quando passa da una nota all'altra, no? Anche quando c'è il legato, sentite sempre questo questo passaggio, e poi ogni tanto ci sono questi scoppi sul registro grave o l'essere un po' più strozzato quando va sul registro acuto. Di sicuro è un suono teso, non sembra mai molto rilassato, e questo suono un po' teso è diventata la sua cifra stilistica. Ora, vi dicevo prima, ascoltando Dolores, che c'è una specie di, come posso dirvi, di alternanza tra dei momenti più lirici e dei momenti più astratti. Questo aspetto può essere amplificato anche, per esempio, sui pezzi lenti. In particolare c'è un altro pezzo che Shorter scrisse per il quintetto di Miles Davis, che è stato un po' oscurato dalla fama di pezzi come Nefertiti o Pinocchio, e che invece è bellissimo e che si chiama Fall, autunno. Fall è fatto in una maniera apparentemente molto semplice. Anzitutto c'è una cosa che non ho ancora detto, che riguarda la forma di questi pezzi. In genere i pezzi di jazz seguono la struttura della forma canzone: A-B-A, c'è una melodia, c'è una parte centrale contrastante, la ripresa della melodia. Shorter invece ha introdotto un'innovazione invisibile ma fondamentale per chi fa musica, ha introdotto l'idea che il tema non è segmentabile, come Dolores, è fatto come una specie di blocco completo. Questa cosa la vedremo meglio in Pinocchio. E questo blocco completo non ha la lunghezza tipica dei giri di 32 battute, può essere di 18, 22, come nel caso di Pinocchio, 16, 15. Cioè i temi sono pensati come delle arcate, come dei racconti non segmentabili, o comunque non facilmente segmentabili. Dietro, tra l'altro, c'è un pensiero cinematografico, perché Shorter è un cinefilo accanito, anche con delle punte, diciamo, di compulsivo ossessive. Per esempio, lui dice di aver visto Scarpette Rosse, credo, non so se 30-40 volte. C'è anche una scena, se vi ricordate, in Round Midnight, in cui lui è in studio con Dexter Gordon e il regista Bertrand Tavernier gli fa raccontare una barzelletta legata a Scarpette Rosse. Dice: avete visto Scarpette Rosse? Lui, insomma, passa la vita a vedere questo, peraltro, grandissimo film. Quindi vi dicevo, c'è un elemento di astrazione e di melodia. Fall, da questo punto di vista, è esemplare, è un pezzo lento in cui ci sono la ripetizione di tre volte della stessa frase. Questa frase ha una parte neutra e una parte memorabile. La parte neutra sono delle note lunghe. Tutto qua, cioè questo. La rifaccio. E poi c'è una piccola coda bellissima. Tutto qua, questo è il tema. Poi ripete la cosa. Scusate. E poi c'è un'ultima volta. L'ultima, chiamiamola così, esalazione di quella melodia è lievemente diversa. Questo è il pezzo. Cos'è che lo rende magico? Due cose. La prima è il fatto che le idee si ripetono, semplici o melodiche che siano. Ok? E poi di nuovo la cosa si ripete. Ma nelle ripetizioni ci sono dei piccoli cambiamenti. Una è una tecnica che approfondiremo dopo, cioè il fatto che Shorter cambia accordi sotto la stessa melodia. La prima volta, la seconda volta. Una è così. L'altra è così. Sono due cose diverse. E quest'altra è più chiara. L'altro aspetto è che questa frase discendente assume un altro carattere più avanti, qui. Sentite com'è lievemente diversa? E poi c'è un'altra cosa, che come fa in Dolores, l'idea iniziale viene ripresa alla fine. Ma senza la ripresa della melodia, ma solamente con un'ultima nota. L'altra cosa è che anche le note lunghe hanno colori diversi. La prima volta è questo. La seconda volta è questo. La terza volta è questo. Quindi la prima volta è. L'ultima è. Diverso. Ok? E poi riprende la stessa idea andando più sopra. Questa è un'altra cosa tipica di Shorter. La prima volta è più basso. La seconda volta. La terza volta sale. Ed è un po' diverso. E poi sale ancora. Ok? Come viene sfruttato da Davis questa idea? C'è una parte neutra e una parte melodica. Molto semplice. Nella parte neutra quasi mai suonano le note della melodia. Ce l'ha solo. Shorter, Davis, Hancock suonano quello che vogliono durante quelle note neutre. Ma quando arriva il motivetto che cattura, tarurara, lo devono suonare obbligatoriamente. Quindi l'assolo, gli assoli non sono fatti di frasi lunghe e liberamente sviluppate, ma sono fatti di segmenti liberi, quel momento neutro, e di parte obbligata del tema. In questo modo un pezzetto di tema lo si ascolta continuamente e ossessivamente per tutto il pezzo. Questo era il tema. durante l'assolo di piano i fiati ricordano il tema. Sotto fa il tema. Capite che quando il tema circola per tutto il pezzo non c'è bisogno di rifarlo alla fine, no? Anche perché questo tema si sente, non si sente, affiora, ogni tanto scompare, riemerge questa punta melodica. Avete visto come c'è un piccolo frammento che può essere espanso e andare a occupare praticamente l'intero pezzo. Questa è una procedura formale che Shorter su cui ha lavorato in maniera molto affascinante, soprattutto nel periodo con i Weather Report, dove aveva a disposizione, diciamo, delle strategie formali, una maggiore libertà, paradossalmente, rispetto al quintetto di Davis. Cioè, con i Weather Report, Shorter ha modo di lavorare su delle strutture più ampie che hanno un respiro quasi sinfonico, proprio perché il gruppo, contrariamente al gruppo di Davis, lavora moltissimo sulla composizione e un po' meno sull'improvvisazione. Il contributo di Shorter al repertorio dei Weather Report è molto particolare, perché Shorter contribuisce soprattutto con i pezzi più concettosi, con quelli più complessi, involuti, armonicamente più, come dire, più lavorati, mentre Zaminul è quello che scrive i pezzi più funky, più orecchiabili, più danzanti anche. E come vedremo dopo, nei pezzi scritti per i Weather Report spesso affiora una componente latinoamericana che è importantissima nella musica di Shorter. Io vorrei farvi sentire, in particolare, mostrandovi insieme a voi la struttura, un brano bellissimo e anche questo un po' sottovalutato, che si chiama Harlequin, che viene dal celebre album Heavy Weather, che fu il disco che rivelò poi Jaco Pastorius al mondo e che contiene la famosa hit Birdland, non a caso scritta da Zanino, appunto. Ma Harlequin è un pezzo, diciamo, di tempo medio, non è proprio una ballad, non è neanche un pezzo veloce, però a un certo punto cresce. E prima di ascoltarlo, e vi mostrerò la struttura man mano che lo ascoltiamo, devo spiegarvi un termine tecnico. C'è un turnaround, cioè praticamente il turnaround cos'è? È un giro di quattro accordi, lo riconoscerete, ve lo indico in maniera molto semplice e chiara, è un giro di quattro accordi che di solito servono per accompagnare. Shorter invece cosa fa? Prende questo turnaround, lo infila in vari punti della struttura e, come vedrete, poi alla fine lo usa per espandere il pezzo proprio alla fine. Cioè un elemento di connessione che poi alla fine diventa invece un elemento strutturale fondamentale su cui si regge tutto il pezzo. Non solo, sentirete che adotta un'altra strategia. È come se prendesse Dolores o Fall, prendesse la melodia, la facesse a pezzetti e poi la espandesse un po' alla volta. Non ce la fa sentire tutta insieme. Ogni volta che il pezzo va avanti, lui aggiunge un pezzetto di melodia, uno sviluppo diverso. In alcuni casi a fare questa melodia è il sintetizzatore di Joe Zawinul, in altri casi è il soprano di Shorter. Tra l'altro, ascoltando il soprano, ho cominciato ad apprezzare questo suo suono nasale, è lievemente calante. Il soprano di Shorter è lievemente stonato. Voi direte, Shorter stonato? Allora, c'è un problema. Uno, il sax soprano è uno strumento stonato. Cioè uno strumento che ha delle imperfezioni sue, congenite, e quindi tende a essere un po' stonato, un po' calante. Shorter, invece di correggere questa imperfezione dello strumento, ne ha fatto una specie di tratto distintivo. Coltrane non è stonato, si vede che ha lavorato apposta per correggere l'imperfezione dello strumento. Shorter in un certo senso l'ha assecondata e questa lieve stonatura è diventato un tratto che lo rende assolutamente inconfondibile. Turnaround. Te lo ripeto. Sentite come è stonato? È una prova magistrale di come si possa fondere easy listening, cioè un pezzo di orecchiabile, facile, con una sofisticatezza armonica e una complessità strutturale, come vedete, che un gruppo jazz abitualmente non ottiene. Questo era uno dei punti forti dei Weather Report. Ora vorrei con voi esplorare un altro aspetto della musica di Shorter, innanzitutto la sua, diciamo, l'eredità coltraniana e anche il modo in cui Shorter, che ha questa sua componente cantabile, avete sentito addirittura col soprano, come avete potuto apprezzare soprattutto nella parte finale, quasi stonando, una componente lirica che si ritrova nelle sue ballad. Una delle mie preferite, ce ne sono diverse, è un brano del periodo Blue Note, cioè quando lui stava suonando con Miles Davis e intanto faceva dischi con tutt'altri pezzi per conto suo. Molti di questi pezzi sono diventati degli standard del jazz. Questo si chiama Virgo e questo ci permette di, diciamo, di entrare, cominciare a entrare in altri aspetti della musica di Shorter. Il primo è una cosa che fin qui abbiamo intuito ma non l'abbiamo ancora discussa, cioè il fatto che Shorter usa spessissimo delle idee piccole e semplici. In questo caso, nel caso di Virgo, è questa idea qui. Basta. Tant'è vero che la seconda parte della frase fa così. Quindi fa così. Scusate. Questo è l'inizio di Virgo. A questa discesa segue poi una frase che sale. Quello che rende speciale questa cosa è non solo l'idea semplice che viene ripetuta, tra l'altro lo sentirete suonata con un filo di voce sul sax, nel registro acuto, ma è l'accompagnamento degli accordi, un discorso che faremo dopo, ma a orecchio vorrei farvi sentire come le scelte di Shorter evitino quello che il nostro orecchio si aspetta. Attenzione qui. Su questo accordo la cosa più ovvia sarebbe fare. Ok? Sentite cosa fa Shorter. Cioè, la melodia è semplice, ma la soluzione armonica è come se portasse la musica improvvisamente, gli fa fare una torsione. Invece di fare, fa così, va da un'altra parte. Riparte da qui, sempre la stessa idea. Anche qui Shorter evita la soluzione ovvia. Vi faccio sentire quella che avrei immaginato io, cioè quella ovvia. Mi sto sminuendo un po', ma per farvi capire. Sì. Così, in minore. Invece lui chiude in maggiore. Bello che sul minore ci va un attimo dopo. Sentite questo cambio di colore? Questo. Questo viene pari pari da Coltrane. Sono delle scelte armoniche che Coltrane fa in pezzi come Giant Steps, e che Shorter ha l'abilità di trasformarle in idee liriche. Sentite come sono le stesse idee. Qui tra l'altro mette gli accordi ovvi. Ok? Rifà il tema. Quando il tema viene ripetuto un'ultima volta, vi ricordate che la prima frase faceva questa cosa qui? eccola. Ok, questa cosa che sale la prende dopo. Alla fine la fa diventare un po' come in Arlecchino, o nei brani abbiamo sentito, la espande e diventa la cosa più importante questa frase che sale. Fa così. No, la faccio da qui, scusate. Più volte. E chiude andando in movimento inverso. Quindi, idea semplice, scelte armoniche che spostano continuamente la direzione della musica e la frase ascendente che da piccolo elemento caratterizzante alla fine si espande. Ascoltiamo il tema e l'assolo di Shorter. brano successivo nasce come una ballad, ma è diventato, per merito di qualcun altro, uno dei pezzi più famosi di Wayne Shorter, Pinocchio. Pinocchio si trova nel disco Nefertiti del quintetto di Miles Davis, 1967, e come sapete è un pezzo a tempo rapido, che tra l'altro fu poi ripreso dai Weather Report verso la fine della loro carriera. Alcuni anni fa è uscito un cofanetto con le alternate takes, cioè con le versioni di prova. Che è successo? Abbiamo scoperto che Pinocchio nasce come una ballad, cioè Shorter ha portato un pezzo come questo o come Fall in studio, lo hanno suonato lentamente, Miles Davis ha detto bello questo pezzo, però lo facciamo veloce. Shorter avrà detto ma io no, si fa quello che dice il capo. Lo fanno veloce, contrariamente alle intenzioni di Shorter, e Davis in questo caso ci vede meglio dell'autore del pezzo. A volte succede, uno può essere geniale nello scrivere un pezzo e qualcun altro, geniale come te, vede nel pezzo qualcosa che tu non hai visto. Pinocchio è senza dubbio una delle creature più felici di Davis, di Shorter, lapsus. Sapete perché? Perché qui lui fa qualcosa di ancora più minimale. Cioè tutto il pezzo è ridotto a un gesto, che è questo. Basta. Questo semplice gesto discendente, anzi, che nasce come una ballad, perché il pezzo nasce così. Adesso lo sentiremo. Ma questo gesto viene poi espanso, viene ripetuto, è espanso, scusate. E poi sapete, Shorter introduce un'idea nuova, è che il gesto invece di scendere sale, il gesto è questo. E allora lui a un certo punto fa e risponde con la discesa. L'unica cosa diversa è il finale, in cui torna la sua concezione al tempo stesso astratta e melodica. No, scusate, aspetta, accordo. Quindi, sentite che è tutto salti. A questi salti, lui mette su questi salti degli accordi dissonanti. E poi ricomincia. Quando andarono a suonarla, la fecero in forma di ballad, cioè in questo modo. Questo è il gruppo che sta provando. Più astratta di Virgo o di Paul. Molto sofisticato. Passano 5 minuti, fanno tre volte il tema, tutto qua, questo è il pezzo. Però, prima di registrarlo di nuovo, Davis appunto ha detto no signore, questo pezzo è bello, ma funziona se lo facciamo veloce. Non solo, Davis impone un'altra trasformazione al pezzo, e cioè che dopo aver fatto il tema, non si sta sul giro degli accordi che sono molto complicati, ma si suona quello che ti pare. Era il principio della musica di Ornette Coleman, che vi spiegherò meglio in una prossima lezione di jazz, nella prossima primavera. Cioè il fatto che i musicisti suonano, portano il tempo, ma sono completamente liberi di fare quello che vogliono. Non stanno su una griglia armonica, non stanno su un ritornello, non stanno su niente, sono completamente liberi. Davis usa questa libertà per fare delle frasi cromatiche molto libere. Shorter la usa per reintrodurre gli elementi del tema. Improvvisa alla maniera sua, tematica. L'unico che sta sulla struttura è Herbie Hancock e, suonando gli accordi con la mano sinistra, lo fa capire al gruppo, il gruppo rientra nella struttura. Sapete cosa succede? Succede che il gruppo cambia strategia di improvvisazione a seconda delle esigenze del singolo solista e non se lo sono detti prima. Questo è Pinocchio. Evidentemente Davis doveva amare talmente tanto il tema, che è bellissimo, a velocità giusta, che lo suonano tantissimo, tante volte di seguito e fra un assolo e l'altro, come in un rondò, come in un pezzo in cui tra una variazione e l'altra ritorna il tema. Questo è quello che succede con Pinocchio. Lo riascoltiamo per intero perché è un brano straordinario. Eccolo. Ora veloce funziona meglio. Improvvisano senza una struttura sotto, liberamente. Infatti il pianoforte tace apposta per non creare vincoli. con i soliti finali andò coio coio, tipici di Miles Davis in studio, praticamente neanche provati. Il prossimo brano ci porta, ci avviamo verso l'ultima parte della lezione, ci porta dentro l'aspetto tecnicamente più, apparentemente più complesso, ma in realtà è quello poi più importante di tutta la musica di Wayne Shorter, e cioè la concezione armonica. Cercherò di spiegarvi il concetto nella maniera più semplice possibile. Allora, se io suono una melodia che è fatta di singole note, per esempio, questa melodia ha un suo colore, un suo carattere. Io posso cambiare il colore e il carattere di questa melodia cambiando gli accordi che ci sono sotto. Per esempio, se io faccio, suona in un modo, ma se io faccio, sentite che cambia, è diventata improvvisamente malinconica, riflette il mio mood di oggi, diciamo così. Così più allegra, il mio mood di ieri. In realtà io l'ho fatto su un pezzetto, ma ogni singola nota può cambiare di colore. Vi faccio un altro esempio. Ok? Avete sentito che sotto cambia l'accordo ogni volta che faccio una nota sopra? Lo rifaccio. Ora faccio la stessa melodia, ma cambio il tipo di accordi sotto. Ok? C'è una ragione fisica per cui questo accade, cioè le note che sono sotto sprigionano letteralmente dal punto di vista fisico delle vibrazioni che vanno a influenzare le vibrazioni della nota che sta sopra. La mescolanza di queste vibrazioni cambia la nostra percezione, il colore e anche il carattere emotivo ed espressivo di quelle singole note. Credo che sia, spero, abbastanza chiaro. Ecco, Shorter è il maestro assoluto di questa tecnica. È una tecnica fondamentale nel jazz, si chiama l'armonizzazione, cioè avere la melodia, tu c'hai la melodia di Gershwin, data, e ci trovi il tuo modo di dare un colore diverso a quella melodia. Monk era un maestro di questo, Art Tatum era un maestro di questo, ma forse Shorter è il più originale di questi maestri. Perché? Perché lui, potrei tornare indietro su Dolores, potrei tornare indietro su Fall, ha questa abilità di farti sentire sempre quel famoso pezzettino, quella sua idea di base, quel suo nucleo, ma ogni volta cambia l'accordo che c'è sotto. E quindi tu senti qualcosa che rimane uguale e che in realtà cambia costantemente colore. Il capolavoro assoluto da questo punto di vista è una composizione del 1974 dedicata alla sua moglie di allora, Anna Maria, che essendo brasiliana è un pezzo che in realtà ha un'allusione alla musica brasiliana, perché la melodia stavolta non se l'è inventata Shorter, è una elaborazione della parte centrale della ragazza di Ipanema. Avete presente? Ecco, Shorter prende questa idea e la elabora, all'inizio fa così. Ok, gioca continuamente su questa idea. La varia in mille modi. Però lo spunto è quello, anche ritmicamente proprio. Allora, in Anna Maria succede questo. Per esempio, la melodia comincia con questa nota. Ok? Poi la stessa melodia viene fatta più in basso. Invece che da qui, parte da qui. E va più in giù. La terza volta inizia ancora più in basso. La prima era questa. La seconda è questa. La terza. Ok? E questo giochino lo fa più volte. Ora, Ascoltate attentamente. Dunque, la prima volta la melodia fa così. Poi c'è questa nota. La chiamo re bemolle, così la identifica. Questa nota. Bene, questa nota compare un sacco di volte nel pezzo. Sentite con che colori diversi, perché cambia l'accordo sotto. La prima volta compare così. Ok, così. Poi un'altra volta compare così. Così. La terza volta compare così. Riassumo, la prima volta è così, la seconda volta è così, la terza volta è così. Quindi voi sentite ossessivamente sempre la stessa nota, ma ogni volta cambia il carattere emotivo di quella singola nota addirittura. E questo è espanso su tutto il pezzo. Perché, per esempio, c'è un punto in cui Shorter fa così. La prima volta, e la seconda volta invece fa. Quindi la prima volta questa melodia scende così. La seconda volta scende così. È più consonante. Questa è più dissonante. Questa è più consonante. La parte dissonante suona più astratta. La parte consonante suona più lirica. Il bello è che lui da una battuta all'altra va dall'astratto al lirico. Ok, da questa nota più puntuta a quella lirica. Ok? È tutto un gioco così di cambiare continuamente colore. C'è un ultimo punto bellissimo che voglio sottolinearvi. Verso l'inizio la melodia fa. Uno si aspetterebbe questo. Questa è la soluzione zen, cioè quella banale. Sentite la soluzione Shorter. Cioè, invece di fare la nota che ci aspettiamo, fa così. Che dissonante! Di un pelo, è mezzo tono sopra. Non solo, ma invece di mettere a quel punto, non può mettere l'accordo che tutti ci aspettiamo, che è questo, ma mette un accordo che non molto più forte. Sapete qual è il bello? È che alla fine invece mette la nota giusta. Solo che non mette l'accordo zenni, quello banale, che è questo. Ma ne mette un altro, consonante ma è un altro. Spero di aver reso l'idea, mi rendo conto di essere stato un po' più tecnico, ma la bellezza della musica di Shorter, alla quale voglio introdurvi, sta anche e soprattutto in questo. Voi direte, ma se io non sono musicista queste cose non le capisco. No, non funziona così, perché voi percepite comunque il cambiamento di colore e l'elemento seduttivo, seducente di questa melodia ispirata alla Garota dei Panema, che ritorna sempre uguale e sempre in maniera sottilmente diversa. E questo è il fascino, è sempre uguale e sempre diversa, è sempre uguale, ma un filo ogni volta diversa. In questo modo spero di avervi chiarito dov'è che risiede questa diversità, cioè nel fatto che le singole note assumono colori espressivi differenti, anche se vengono ripetute quasi sempre uguali. La cosa fantastica di questa esecuzione dal disco Native Dancer del 74, e che poi Short è praticamente non improvvisa, è un po' come in Harlequin, no? Cioè si limita a fare il tema perché è talmente bello in sé che basta a se stesso. Col soprano un po' stonato. Jobim. Una bossa nova. Thank you. Qualche giorno fa, come sapete, è scomparso Pierre Boulez, uno dei giganti della musica del Novecento. Boulez apparteneva ad una generazione di compositori che pensava che la musica contemporanea dovesse sfidare l'orecchio dell'ascoltatore, e lui lo ha fatto in maniera che io trovo assolutamente geniale, un gigante della musica, dovesse sfidare la percezione dell'ascoltatore e portarlo su territori territori nuovi, anche pericolosi, diciamo, nei quali uno non riesce bene facilmente a orientarsi. Uno dei modi per arrivare in questi territori nuovi era evitare gli accordi tradizionali. E addirittura in una fase giovanile, personaggi come Boulez, quando erano molto più intransigenti, nell'immediato dopoguerra, dicevano che chiunque avesse continuato a scrivere musica sugli accordi tradizionali non era altro che un reazionario. È un'idea che poi è rimasta un po' anche per colpa di, più che di Boulez, soprattutto del filosofo Theodor Adorno, un'idea che poi è rimasta nell'ambito dell'avanguardia musicale, per cui se ti azzardavi a fare una melodia venivi fucilato sul posto. Shorter ci mostra invece, al di là delle prese di posizioni ideologiche, che con il linguaggio tradizionale dell'armonia si possono inventare ancora delle cose nuove, perché forse non vi è chiara una cosa: il pezzo che avete sentito adesso, Anna Maria, o per esempio Pinocchio, contengono questi pezzi delle soluzioni, quelle che vi stavo mostrando con quei passaggi di accordi, che ha inventato Shorter, che nessun musicista aveva utilizzato prima. Shorter ha creato un nuovo linguaggio dell'armonia, di cui Anna Maria è in un certo senso una specie di, antologia di tutte le possibilità. I musicisti studiano avidamente questo tipo di brani perché dentro c'è un linguaggio nuovo, come sentite, peraltro eufonico, piacevole, ma le soluzioni armoniche che Shorter inventa sono nuove, originali, e oggi fanno parte del bagaglio di base di ogni jazzista. La cosa straordinaria è che continuano a suonare come fresche e sorprendenti, esattamente come 30-40 anni fa. L'idea shorteriana di prendere un frammentino musicale e fargli cambiare continuamente colore con il cambio di accordi raggiunge il clou in un pezzo della metà degli anni Ottanta, che è il periodo creativamente meno felice di Shorter, diciamo la seconda metà degli anni Ottanta, ma ci sono qui e lì delle perle, come questo brano, che è breve e voglio farvi ascoltare perché io lo trovo bellissimo, si chiama The Three Marias, 1985, viene da uno dei dischi migliori del suo periodo un po' più, diciamo, meno creativo, Atlantis. È un disco dove non c'è una sola nota di improvvisazione, e vi ricordate l'idea di Dolores, cioè prendo un frammentino ritmico e lo ripeto un'infinità di volte? Ecco, qui il frammentino ritmico è ancora più piccolo, ma la quantità di accordi, non c'è bisogno adesso che vi faccia l'analisi, è incredibile, spropositata. Ogni singola nota ha 10-12 colori diversi. Il pezzo è quasi ossessivo in questo suo ripetere una piccola idea, sempre di carattere latino tra l'altro, sotto sotto, una piccola idea, e avere questa girandola di accompagnamento che quasi fa stordire, che viene ripetuta 2-3 volte in 4 minuti in questo pezzo compattissimo. Questa è l'idea. Basta. Sentite come cambia tutto sotto. C'è anche un fondo. Anche sotto la stessa idea. E poi sopra. Poi cambia colore. Cambia ancora. Cambia ancora. Thank you. la stessa idea senza il ritmo. Piccola idea. Diventa lirico. Eccolo. Questo ritmo. Solo un attimo. Torna astratto. Ci avviamo verso la conclusione. Tra le pieghe del repertorio dei Weather Report ci sono delle perle di Shorter che sono state poi dimenticate perché appunto i pezzi di Zamin non hanno avuto più successo, erano più funky, più spinti, anche più orecchiabili. Fin qui vi ho dato l'idea di uno Shorter che compone con questi mattoncini che qui nel caso di The Three Marias è proprio minimale, no? E permea praticamente, pervade tutta la composizione. Ma Shorter è stato anche un grandissimo lirico, capace di scrivere delle cose molto evocative su note lunghe, mentre per esempio quello che succede sotto ribolle. C'è un brano dal terzo album dei Weather Report, uno dei più dimenticati e secondo me uno dei più belli in assoluto di Shorter, anche perché l'arrangiamento è straordinario, che si chiama Manolete, e non so se qualcuno se lo ricorda questo pezzo, e come funziona? Funziona che c'è una base ritmica molto latin, messicana, diciamo cubana, brasiliana, percussioni, campanacci. Il pezzo tra l'altro è lento, come dire, medio lento, e ha questo ribollire ritmico sotto, e sopra il soprano di Shorter ha una specie di cioè suona esclusivamente una melodia che è lunga, fatta di note lunghe, tiratissime, con questo soprano che sembra quasi volersi spezzare, ed è di una suggestione eccezionale. L'armonia è molto complessa, ma c'è un lirismo teso che è una delle cifre caratteristiche dello stile di Shorter su questi ritmi latinoamericani. Si fa quasi fatica a capire qual è la melodia, tanto è distesa e tesa. Sentitela. Astratta. Thank you. Fra l'altro avete sentito anche qui c'è questa idea, che è un'idea secondaria che alla fine si espande come in Arlecchin. Io avevo anche un altro ascolto che però saltiamo, era un filmato recente del suo quartetto, mi fanno Footprints, ma il tempo è tiranno e vado dritto al titolo della nostra conferenza, il nostro ultimo ascolto, Nefertiti. Contrariamente a tutti i pezzi che Shorter avete sentito fin qui, Shorter stesso racconta che questo pezzo gli nacque in un blocco solo. Lui compone al pianoforte, racconta anche nel libro di Michel Mercier, compone al pianoforte, elabora, trasforma, modula le parti, le combina, le spezza, con tutte le procedure che abbiamo visto. Invece Nefertiti dice, mi sono messo al piano e nel giro di 10 minuti il pezzo è venuto fuori. Nefertiti è la composizione più celebre di Shorter, anche perché la modalità con cui poi Davis decide di farla, di suonarla in studio nel famoso disco che dà il titolo al brano, permette proprio di renderla speciale. E Nefertiti è la summa di tutto quello che abbiamo detto fin qui. Innanzitutto c'è un misto di astrazione e melodia. L'astrazione e la melodia sta, diciamo, l'irismo sta soprattutto in questa frase discendente. Ok? Quindi, celebre. L'astrazione sta in quello che segue dopo. Più dissonante. Primo colpo di genio, quello armonico, degli accordi che si mettono sotto per dare un colore diverso alla melodia. Soluzione Zenni. Ok, così. Soluzione Shorter. Sentite come cambia? Quella che era così diventa. Cosa che consente a Shorter di mettere dentro delle note dissonanti. Poi c'è l'idea di ripetere le melodie, come in Anna Maria. La seconda parte. Ripetuta. Solo che la prima volta la melodia parte così, la seconda parte da qui. Poi parte da una dissonante. Sentite com'è. La prima nota è consonante. La seconda volta invece è dissonante. Il bello è che a questa dissonanza segue una frase semplicissima. E finisce in modo astratto. Poi finisce qui la melodia e Shorter lascia due battute di vuoto. C'è questo accordo e questo. Senza niente. E poi ricomincia. L'altro modulo è questa cosa un po' lamentosa. Sentite? C'è sempre questa, che poi si espande. Va anche sotto. Silenzio. E poi ricomincia. Eccetera. Vanno in studio con Davis, è la stessa seduta di Pinocchio. La provano. Davis dice, ma è bellissima. Non ci improvvisiamo sopra. suoniamo la melodia e basta. Neanche Pinocchio, avete sentito, lo fanno tante volte. Qui dice, no, niente a soli, facciamo la melodia e basta. Quando la provano, la suonano, la prima volta la fanno per provarla e Davis dice, pubblichiamola così, solo la melodia, ma c'erano degli errori, allora la rifanno e la seconda volta succede una cosa magica. Non ci sono assoli, a fare l'assolo, sapete chi è? Chi di solito non lo fa, c'è la sezione ritmica. La tromba e il sax suonano continuamente la melodia e la sezione ritmica pian piano ribolle, sempre di più, crescendo, crescendo, interagendo fra di loro. Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams fanno l'assolo dell'accompagnamento, mentre i fiati fanno in un certo senso l'accompagnamento, quello che i latini avrebbero chiamato nel Medioevo avrebbero chiamato il cantus firmus, la melodia che rimane stabile per tutto il pezzo, e questo ci permette di stare lì a gustarci continuamente questa incredibile creazione. Thank you. scalzarlo. Riescono anche a rovinare il pezzo con questo finale, così, un po'. Viene da parlare a bassa voce dopo un pezzo del genere. Nefer voleva dire bellezza, quindi il nome della regina Nefertiti contiene la parola bellezza, e la bellezza per Shorter, secondo me, è questo misto di astrazione e passione, di logica e di sorpresa che contraddice la logica continuamente, di concetto e pathos messi insieme, e sembra continuamente che ci sia un effetto di avvicinamento e di allontanamento emotivo dalla musica. Forse Davis, nel ripetere continuamente questa melodia, aveva colto una verità profonda della musica di Shorter, cioè che è una bellezza da contemplare come quella di Nefertiti. Grazie. Grazie. Grazie.